Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Cari radioascoltatori, buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Alcuni giorni fa a Reggio Calabria, in provincia di Reggio Calabria, c'è stata un'operazione all clean, possiamo così definirla piazza pulita, nel corso della quale sono stati sequestrati 190 milioni di beni alla cosca pesce di Rosarno, una delle cosche che dettano legge nell'area. Noi l'abbiamo seguita come Radio 24, ma la cosa interessante, a dimostrazione quindi di quest'opera di repressione continua ai patrimoni mafiosi, è che questa operazione all clean continua, sta continuando anche in queste ore. Poche ore fa se ne è conclusa una costola, e della quale noi vogliamo avere aggiornamenti parlandone proprio con il colonnello Claudio Petroziello, che è il comandante del nucleo di polizia tributaria di Reggio Calabria. Colonnello Petroziello, buongiorno. Buongiorno dottore, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, ci parli di questa costola che, se non sbaglio, ha colpito l'area di Vibo Valentia. Cosa avete sequestrato? Abbiamo appena concluso un'operazione che ha portato al sequestro di una villa di grandissimo pregio nell'area del Vibonese, che era riconducibile alla cosca pesce tramite dei prestanome. Oltre a questa villa, un bar nel pieno centro di villa di Vibo Valentia, famoso anche per essere stato teatro di una organizzazione di Miss Italia, delle selezioni di Miss Italia qualche anno fa. Ecco, quindi da Miss Italia, insomma, al sequestro per connivenze, per vicinanze, diciamo così, alla cosca pesce di Rosarno attraverso un prestanome. Senta, colonnello, io vorrei tornare invece adesso a questo punto all'operazione All Clean, chiedendole di un aspetto che a me ha colpito moltissimo, vale a dire l'aspetto del calcio. Il radioascoltatore si chiederanno: ma cosa c'entra il calcio? Ebbene, c'entra perché tra i beni sequestrati dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria ci sono anche due squadre di calcio, una di Sapri ed una è la squadra di Rosarno, la ex rosarnese ora interpiana. Ecco, colonnello, può per piacere spiegare il significato del calcio, comunque dello sport in generale, per le organizzazioni mafiose? Beh, guardi, innanzitutto lo si è detto qualche tempo fa, l'operazione All Clean ha posto la luce su una vera e propria holding dei pesci che hanno dimostrato interesse in tutti i settori dell'economia locale. E il calcio è quasi un'attenzione particolare per ottenere consenso tra i cittadini. Il calcio è un modo per affermarsi non solo economicamente, ma anche con il consenso. Non per niente ci sono alcune intercettazioni molto significative in cui vengono evidenziati come una squadra di calcio porta giocatori, porta persone estere e porta interessi esterni nel proprio paese. Certo. E questo è un elemento che sicuramente non sfugge ai gerarchi. Certo. delle cose. Del resto ci sono molti precedenti su questo in Calabria, in Sicilia, in Campania, in Puglia, insomma un po' in tutto il sud. Ecco, a me ha colpito anche il fatto, colonnello, che i dirigenti della squadra di calcio si siano affrettati a dire che la squadra, quindi in quanto tale, non è coinvolta, e ci mancherebbe altro. I giocatori probabilmente, voglio dire, erano all'oscuro di tutto. Però le chiedo, chi dirige una squadra di calcio? Adesso io non mi voglio soffermare tanto sulla Interpiana di Rosarno o sulla squadra di Sapri, ma è possibile che chi dirige resti all'oscuro di quelli che poi sono effettivamente i titolari di una società? Chi ci mette i capitali? Chi cerca questo consenso? Lei crede a questa possibilità? Ma guardi, non la escludo, io per carità non è questa la sede per contestare. Certo. Atti delle dichiarazioni che sono state effettuate. Certo, è ovvio che se si cerca il consenso, i cittadini, i tifosi hanno ben presente chi mette i capitali. Ecco, sono d'accordo con lei. Ecco, sicuramente questo è un aspetto, poi quanto consapevoli possano essere i dirigenti o quanto siano dei veri e propri professionisti. Questo è un altro paio di maniche. Un altro fatto, certo. Forse un altro terreno. Ecco, l'ultima domanda, colonnello. Un suo collega, il colonnello Alberto Reda, capo della comando provinciale, esattamente, del comando provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, ha detto gli abbiamo tolto l'acqua, facendo una battuta, no? Abbiamo tolto l'acqua alla cosca pesce di Rosarno. È veramente così? Beh, consideri che ci sono ancora alcuni latitanti dopo l'operazione All Inside, la latitanza costa. Sicuramente abbiamo ridotto molto i flussi. Ora non voglio essere troppo ottimista di dire certo. Però molto è stato fatto. Io ringrazio il colonnello Petroziello, che è il comandante del nucleo di polizia tributaria di Reggio Calabria, per il suo intervento. Ringrazio Mauro De Angeli in regia e Laura Faggini in redazione, e Roberto Calullo vi auguro una buona giornata.